Eccoci qua, passaggio a nord-ovest, trasmissione 46, passaggio a nord-ovest, tutto quello che succede, anzi quello che succede nel quadrante nord-ovest della città, raccontata da chi in questi quartieri ci lavora. E era un po' di tempo fa, circa un anno e mezzo fa, un'intervista a Matteo, uno dei principali animatori della Palestra Popolare San Pietrino, che è situato appunto all'interno del centro sociale autogestito Next Emerson. E siamo qui a rintervistarlo una seconda volta, perché chiaramente in un anno e mezzo le cose cambiano. Ecco, gli chiediamo cosa è successo in questo anno e mezzo. Sì, buonasera a tutti, sono Matteo della Palestra Popolare San Pietrino di Firenze, nel CSA Next Emerson. E sì, bene, un anno e mezzo fa abbiamo fatto l'intervista, tuttora adesso continuano gli allenamenti in maniera regolare, ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì del mese, e dalle 7 alle 9. E sì, io sono la persona che è un po' più di riferimento a livello di palestra, poiché tengo gli allenamenti, e ci tengo a precisare che sono allenamenti collettivi. Infatti è molto importante che non c'è la figura principale che dice cosa fare o comanda lui, Noi ci teniamo a precisare che i nostri allenamenti sono collettivi, perché tutti ci aiutiamo tra noi stessi. L'allenamento appunto è aperto a tutti, non c'è distinzione né di sesso né di razza, sono tutti allenamenti paritari. E appunto non solo io aiuto l'evolversi dell'allenamento, ma ci sono persone che comunque aiutano in un momento il continuo, per convivere bene l'un con l'altro e divertirsi, appunto fare dello sport sano senza alcuna contaminazione del denaro, che comunque non ce lo fa vivere in maniera positiva. E che chiaramente, essendo una palestra popolare, la partecipazione a seconda del tempo varia. Eravamo partiti più o meno 3 anni e mezzo fa, quando è iniziato questo sorta di allenamento e questo ritrovo di un gruppo che era molto forte, e abbiamo svolto tante belle azioni. E poi che col tempo, a forza di case maggiori, quale lavoro, chiaramente ci sono persone che vanno e vengono. E circa un anno e mezzo fa appunto eravamo arrivati a un numero abbastanza basso, e quindi eravamo un pochino preoccupati a livello di partecipazione, però abbiamo notato che appunto col tempo siamo riusciti a riformare nuovamente un gruppo solido. Infatti da un anno e mezzo a questa parte si è ricreato anche un nuovo gruppo che aiuta in qualsiasi spazio, in qualsiasi forma, a organizzare e a mantenere la palestra molto unita. E quindi lo sviluppo da un anno e mezzo a questa parte è comunque risultato positivo, anche se appunto qualche volta siamo di fronte a cambiamenti di persone, perché chiaramente, essendo una palestra popolare, è molto più aperta e anche accessibile a tali cambiamenti. Ecco. Ci può dire un po' come sono gli allenamenti del pugilato? Cosa c'è di materiale, di strumenti nella palestra? A livello appunto pugilistico la palestra è ben fornita, infatti possiamo dire che non è sguarnita di niente, abbiamo tutta la pesistica necessaria, dei guantoni anche per i nuovi arrivi che magari non hanno idea di come sia fatto anche magari, abbiamo delle corde, abbiamo attrezzi per la pesistica, abbiamo un ring chiaramente da allenamento 4x4 che ci serve per le simulazioni di sparring, caschetti e chiaramente anche se c'è la presenza del ring che è stato costruito da noi circa 2 anni e mezzo fa, ci sono comunque anche delle regole nell'utilizzarlo, cioè nonostante è una palestra appunto libera a tutti, dato che comunque cazzotti effettivamente fanno male e non è che vogliamo rischiare questo, che qualcuno si faccia del male, no? Cerchiamo di essere sereni, quindi anche l'uso del ring diciamo ha una sua importanza ed è sempre bene che durante una simulazione di sparring sia presente qualcheduno o un gruppo che riesca in qualsiasi caso a guardare il match, anche a dare consigli o ecco, a svolgersi più in maniera sportiva. Si tende sempre a vederla in maniera di sport, non d'aggressione, anche se comunque effettivamente è uno sport di contatto. E poi vabbè, oltre comunque al nostro settore, che è quello pugilistico, la palestra, essendo comunque una bella palestra grande, una bella metratura, ospitiamo appunto anche una bella area per un'altra disciplina che sono i tessuti aerei, frequentata da tante ragazze, particolarmente perché si vede comunque c'è anche un altro ragazzo che ultimamente sta prendendo in mano la situazione, molto molto bravo, e anche loro stanno diventando veramente un bel gruppo, infatti siamo contenti perché riusciamo molto a unirci e a mischiare queste due discipline in maniera molto coerente e anche positiva. Quindi pugilato, ma non solo. Certo, infatti non solo, oltre a quello appena detto, tutta l'area riservata a tessuti aerei, all'interno della palestra ci sono altre discipline che vengono settimanalmente svolte, quali la break dance, che preciso sono durante il giorno di martedì, dalle 9 fino alle 11, e alcune volte anche il giovedì. Inoltre c'è il tai chi del giovedì sera, sempre dalle 9 fino alle 11 circa. Gli orari farebbero pensare è frequentata da lavoratori o comunque da una posizione popolare, ecco. Certo, infatti ahimè sono tutti lavoratori, e quindi a meno che qualcuno non faccia il barman notturno, sì, la fascia oraria è sempre dalle 7 fino alle 11 di sera. E ora siamo proprio qui alla palestra, via radio è difficile descriverla, però ecco, sembra proprio un ambiente, però una bella palestra, e ultimamente, o meglio rispetto a quando è stata fatta l'intervista l'altra volta, 1 anno e mezzo fa, ci sono state delle migliorie anche da un punto di vista strutturale. Sì, certo, infatti a livello di struttura si è migliorata molto, abbiamo fatto anche dei lavori a livello di tetto, perché effettivamente filtrava un po' d'acqua all'interno, e quindi quest'estate con il bel tempo siamo riusciti a fare dei lavori per diciamo non far entrare acqua dentro. Inoltre deteniamo un cannone di aria calda ora per l'inverno, in maniera tale che si accende prima degli allenamenti per riscaldare un po' l'ambiente. E inoltre appunto l'ultimo diciamo lavoretto che comunque è risultato molto utile sono state le docce. Infatti abbiamo impiantato 3 docce con 2 boiler, in maniera tale appunto che a ricircolo c'è la doccia per tutti, insomma, che mi sembra un buon passo avanti. Ci sentiamo un pezzo musicale, sono i Rage Against the Machine. Step 1, 2. Eccoci qua, sempre Passaggio al Nord-Ovest. Ricordiamo che Passaggio al Nord-Ovest la potete ascoltare su Radio Womba, chiaramente, quindi il sito wombat.noblogs.org, da cui appunto la potete ascoltare in streaming, in cui ci sono tutte diciamo le informazioni per seguire al meglio, ascoltare al meglio Radio Wombat, dal palinsesto alla descrizione delle rubriche, e anche la pagina podcast in cui sono raccolti tutti i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat e conseguentemente anche di Passaggio al Nord-Ovest. Passaggio al Nord-Ovest è in diretta il lunedì alle 13.30 e in replica sempre alle 13.30 dal martedì al venerdì, e chiaramente, come detto precedentemente, la potete anche riascoltare l'ultima e tutte le trasmissioni di Passaggio al Nord-Ovest in podcast, quindi ascoltare direttamente oppure scaricarla e ascoltarla successivamente. E a Matteo gli chiediamo, ritorniamo appunto nel focus, nella trasmissione, gli chiediamo, ecco, come funziona la palestra? Bene, appunto, come ogni altro posto, come in qualsiasi posto, ci sono, diciamo, comunque delle date che si cercano sempre di rispettare. Quali? La giornata di pulizia della palestra, che bene o male chiaramente ci si mette d'accordo ed è una volta al mese, e molte volte abbiamo deciso o se farla lo stesso giorno della pulizia o in altro giorno anche l'assemblea della palestra, chiaramente aperta a tutti, per varie proposte, varie iniziative e anche per fare un punto della situazione, anche perché deteniamo comunque una cassa comune e quindi quando normalmente c'è da fare dei lavori o cose varie è giusto parlarne un po' tutto insieme senza escludere nessuno. Sempre per quanto riguarda questo punto qua, ci tenevo a precisare anche un po' per quanto riguarda la partecipazione. Allora, ci tengo a ricordare che comunque qualsiasi persona entri dentro questo spazio, è bene che dal momento che entra sappia dove sta facendo sport, cioè sappia in che luogo lo sta facendo, quali sono bene o male le idee. Inoltre, appunto, in maggior modo si chiede il rispetto sia del posto in primis, sia delle persone appunto accanto con le quali ci si allena o si svolge qualsiasi attività. E chiaramente, essendo una palestra popolare, non si chiede esplicitamente la partecipazione attiva a tutti gli altri movimenti, chiaramente quello magari una persona via via ci potrebbe venire arrivare da sé, senza bisogno che gli venga inculcata l'idea, anche perché se no si perderebbe la bellezza della palestra popolare. Però è anche vero, e c'è sempre un però, che appunto noi si cerca sempre di non escludere nessuno, però le pareti, i muri di questo centro rispecchiano le tre, diciamo, le tre correnti di pensiero che noi cerchiamo di portare avanti, e che sono chiaramente l'antirazzismo, l'antisessismo, l'antifascismo. Quindi mi sembra assurdo che qualche persona che abbia una corrente di pensiero totalmente diversa venga ad allenarsi qui. Quindi penso che venga da sé. Noi non escludiamo a priori nessuno, tutte le persone possono venire chiaramente ad allenarsi. Però si è visto col tempo, chi ci crede veramente, chi ha una corrente di pensiero simile rimane, chi invece bene o male non la pensa nella stessa maniera, dopo un pochino se ne va. Quindi noi, diciamo, come politica si è optato su questo, non mandare a fanculo direttamente, cercare sempre di spiegare, far vedere. Poi dopo, se c'è del bene, come si dice appunto, se sono rose poi fioriranno. Io la penso in questa maniera. E la palestra, appunto, proprio rispetto a queste ultime cose dette, anche all'interno di questo movimento, chiamiamolo così, delle palestre popolari nello stivale. Ecco, anche ultimamente, mi dicevi precedentemente, siete stati a un'assemblea nazionale, e comunque, ecco, com'è la situazione? Bene, noi sì, da 3 anni a questa parte facciamo parte di questo coordinamento, che è il coordinamento K, che è il coordinamento appunto delle palestre autogestite antifasciste, che bene o male ci lega in tutta Italia. Infatti è un bel coordinamento, sempre in espansione. È un coordinamento che appunto ha bisogno di incontrarsi sempre di più, perché ha bisogno di capire, di cercare anche spunti dalle altre palestre. Quindi normalmente ci diamo degli appuntamenti che sono all'incirca 4-5 l'anno, in cui facciamo degli eventi chiaramente sportivi, dove ci si raduna e prima si fa un'assemblea dove si parlano di tutte le problematiche e le tematiche delle palestre, insomma. E è un bel coordinamento. All'interno di questo, oltre all'assemblea, si fanno anche delle esibizioni di pugilato. È molto importante anche il confronto, infatti, in confronto con gli atleti, in confronto con tutti, con gli allenatori, spiegare come loro allenano anche i ragazzi, come si comportano a livello della palestra. E è molto un coordinamento molto ottimista, comunque, che ci porta anche parecchia, diciamo, energia, perché quando, tutte le volte ci si ritrova, c'è comunque delle cose positive, delle esperienze che ci portiamo dietro, da raccontare, da divulgare, quindi cioè, ci teniamo molto, ci crediamo molto e continueremo a frequentarlo e sì, penso questo, penso... Ecco, a livello nazionale, ma anche a Firenze ci sono rapporti con altre palestre. Sì, anche a Firenze, infatti non siamo la sola palestra popolare, c'è anche il CPA a Firenze Sud e la Gogoricacci in zona Novoli, ambedue palestre popolari. Sì, ci sono ottimi rapporti anche con loro, infatti quando facciamo qualche evento la partecipazione deriva da tutte e tre le palestre. E, infatti, diciamo, la collaborazione è buona, nonostante appunto le varie posizioni, i vari posti della città, riusciamo, diciamo, a avere una buona sintonia tra di noi. E, ecco, una cosa, essendo popolare, anche gratuita. Certo, infatti l'entrata in palestra è totalmente gratuita, normalmente si mette 5 euro mensili, ma esclusivamente per una caparra che viene chiaramente reinvestita per tutti gli attrezzi o tutte le manutenzioni che c'è da fare nella palestra. Quindi, e chiaramente questa quota viene versata da chi se lo può permettere, quindi chiaramente se una persona non lavora o ha dei problemi, non gli viene assolutamente chiesto dei soldi. Ecco, quindi diciamo che il finanziamento avviene da questo coso, ma soprattutto ogni tanto ci sono delle feste, delle iniziative, delle serate di autofinanziamento. Bene, sì, infatti volevo anche arrivare a questo, e come appunto ogni anno, circa per due volte l'anno, cerchiamo di organizzare una festa di autofinanziamento, volta chiaramente al miglioramento della palestra. E come tutti gli anni, anche quest'anno sarà il 22 dicembre. Ci tengo molto a precisare questa data perché è una festa a cui ci teniamo molto, perché per la prima volta cerchiamo di riunire le palestre popolari presenti nella regione. Dato che appunto noi siamo presenti a livello appunto nazionale, perché frequentiamo il K, ormai ci conoscono anche a Milano, a Napoli, però non era mai sorta questa idea di riunire invece un coordinamento regionale. Ebbene sì, perché negli ultimi anni si sono sviluppate altre palestre a livello regionale, quali una a Livorno, una a Pisa, una a Grosseto, una a Massa, e tutte queste palestre sono molto favorevoli e ottimiste nel partecipare anche loro a questo evento del 22 dicembre, nel quale ci radureremo in assemblea per portare anche nuove esperienze e per aprire un nuovo punto in comune che serva anche a renderci più forti. Se uno mi chiede, voglio andare alla palestra popolare di San Pietrino, cosa devo fare? Sì, cosa gli devo rispondere? Ecco, se uno te lo chiede, cosa gli rispondi? Molto semplicemente di venire alle ore 7 alla sede e con vestito sportivo, poi troverà anche tutto il necessario in palestra. E niente, verrà accolto a braccia aperte e a pugno chiuso. Bene, vi ringrazio, grazie dell'ascolto e buon proseguimento di giornata a tutti. Ciao ciao, alla prossima, passaggio a Nord-Ovest.